We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024, la musica, uno dei settori che ha subito e beneficiato per primo della rivoluzione di Internet, sta per cambiare di nuovo. E oggi non ci sono solo i siti o i software per scaricare la musica canzone per canzone. Beh, la novità sono i servizi di streaming che permettono di ascoltare musica illimitata pagando semplicemente un canone mensile fisso e non le singole canzoni. E poi parleremo di The Daily, il nuovo magazine digitale quotidiano progettato solo per l'iPad e presentato da Rupert Murdoch. Everybody in America who can afford one is going to buy a tablet. Incontreremo anche uno degli anonimi, gli Anonymous, il gruppo internazionale che ha supportato, tra le altre cose, il sito di Wikileaks. Mastercard e PayPal, nel momento degli attacchi, i servizi essenziali, quindi di pagamento elettronico, erano completamente funzionanti. Tra poco la nostra rubrica di videogiochi, ma parleremo anche di governo digitale. Come stanno procedendo in Italia i progetti di e-government? Anche in momenti di ristrettezze economiche e finanziarie, attraverso l'e-government ci si può autofinanziare. L'e-government si autofinanzia attraverso i risparmi. Di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, ringrazio subito Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica e creativa di questo programma, una nuova puntata, 2024, il primo programma alla radio in Italia che parla di tecnologia, come la tecnologia ci cambia la vita e pensando al tema principale di oggi, alla musica, pensate quanto è cambiato questo mercato e naturalmente anche la nostra vita. Se siamo appassionati di musica e ascoltiamo la musica, spesso oggi lo facciamo in modo digitale con strumenti che fino a qualche tempo fa non esistevano. Chiamateci per parlare di questo argomento, di questo tema. Il nostro numero verde, il numero gratuito di Radio 24 è 800 24 0024. Oppure se volete potete anche mandarci un SMS 349 238 6666, scriverci su Facebook, la nostra pagina la trovate molto facilmente scrivendo e cercando 2024, o infine mandandoci una email al nostro indirizzo 2024@radio24.it. Tra poco le notizie più importanti della settimana, adesso giochiamo con Stefano Gallarini. Come sempre iniziamo la puntata svelandovi la soluzione del gioco della settimana scorsa. E per sconfiggere il mostro di fine livello dovete necessariamente superare i primi due livelli. Ecco le risposte. Livello 1. Insieme a qualcuno. La risposta era con. Livello 2. La spina dorsale dello scafo. La risposta era chiglia. E mettendo insieme le due parole, come si fa in una charada, si ottiene conchiglia. Il mostro di fine livello chiedeva... Mostro di fine livello. Chi ci abita dentro? La risposta giusta era quindi mollusco. Complimenti a Massimiliano della provincia di Modena che ha trovato la soluzione e che si porta a casa il sensore Kinect con due giochi offerti da Microsoft. Veniamo ora però al gioco di questa settimana. Come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere il mostro di fine livello e avere la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. In premio anche questa settimana il sensore Kinect e due giochi offerti da Microsoft. Livello 1. La protagonista delle vicende che stanno coinvolgendo il Presidente del Consiglio. Preparatevi perché per il videogioco di oggi bisogna cambiarsi d'abito e mettersi in tuta. Per iniziare, prenditi alcuni minuti per guardarti attorno e impostare il tuo profilo. Per interagire con Your Shape, devi salire sul tappetino. Quando sei sul tappetino, seguirò attentamente i tuoi esercizi e li commenterò. Muoviti un po' e trova una posizione comoda. si intitola Your Shape Fitness Evolved ed è un software che sfrutta la tecnologia Player Projection per costruire programmi di fitness personalizzati. Ci sono voluti più di 2 anni di ricerche per mettere a punto un sistema in grado di proiettare i giocatori direttamente all'interno del videogioco e monitorare così i loro movimenti. La tecnologia Player Projection permette quindi di ricostruire tridimensionalmente la figura di ogni giocatore, offrendo la possibilità al software di valutare con grande precisione ogni posizione del corpo e stabilire quindi se la postura durante gli esercizi è quella giusta o se invece va corretta. Ginocchio avanti è ottimo per iniziare. Alza il ginocchio all'altezza del bacino seguendo il ritmo. E 3, 2, 1 e vai! Ginocchia più su! Le ginocchia vanno a tempo! Così! Non mollare! Piccola sosta? Ok, fermiamoci un momento e prima di proseguire con la descrizione di Your Shape Fitness Evolved veniamo al nostro gioco e al secondo livello da superare. Vi ricordo che per sconfiggere il mostro di fine livello dovete risolvere i primi 2 livelli perché solo così potrete capire la domanda finale, la cui risposta vi permetterà di portare a casa il sensore Kinect e 2 giochi offerti da Microsoft. Livello 2. Il peso senza la tara. Torniamo al titolo di questa settimana. Eravamo alle prese con un esercizio per tonificare il cuore. In Your Shape Fitness Evolved, un personal trainer virtuale aiuta a sviluppare la muscolatura, a tonificare il corpo, a scoprire l'energia dello yoga, con esercizi personalizzati e adattati soprattutto all'altezza, alla taglia e alla struttura di ogni singolo giocatore. Iniziamo. In posizione Dante Antai Chi. Apri le gambe alla larghezza delle spalle. Divarica i piedi e porta le mani sulla vita. Inspira e alza la mano sotto il mento. E ruota entrambe le mani come se disegnassi lo yin yang. Questa è la respirazione yin yang in postura Dante Antai Chi. Attenti però come fate gli esercizi, perché la telecamera è impietosa. Se le gambe non si sollevano abbastanza o la schiena non sta dritta, il personal trainer virtuale lo farà notare. Però se sarete bravi, verrete premiati con un punteggio che valuta i vostri progressi e che potrà essere confrontato con quello degli amici per vincere la sfida a chi si impegna di più. Quando vai a tempo, puoi migliorare i movimenti per fare più punti. Ad esempio, mentre esegui il ginocchio avanti, potrei chiederti di alzare più in alto le ginocchia per ottenere più benefici dall'esercizio. Quindi potrei chiederti di seguire anche il movimento del braccio dell'istruttore. Se esegui tutti i movimenti e riesci a mantenere il ritmo, ottieni il 100%. Your Shape Fitness Evolved sfrutta la tecnologia Kinect per seguirvi in ogni fase dell'allenamento, con una serie di oltre 80 esercizi che potranno essere impartiti da uno fra i 3 istruttori virtuali a disposizione e che potranno essere usati per mantenervi in forma, tonificarvi o aumentare la vostra massa muscolare e la vostra resistenza. Tira un pugno da tutti e 2 i lati, quindi esegui un rapido squat. Ripeti fino ad obiettivo raggiunto. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. Chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un sensore Kinect e 2 giochi offerti da Microsoft. La soluzione dovrà essere inviata a videogiochi@radio24.it. Mostro di fine livello. Il mestiere di chi lo ripara. E adesso la classifica. Dopo essere stato un grande successo per Xbox, al 5° posto il gioco di ruolo di fantascienza che è rientrato in classifica grazie alla nuova edizione per PlayStation 3, Mass Effect 2. Al 4° posto gli sport virtuali e spettacolari di Kinect Sport. 3° posto per il titolo che vi vede protagonisti di un complotto per uccidere il presidente Kennedy in Call of Duty Black Ops. 2° posto per il gioco che vi fa guidare l'auto dei sogni, Gran Turismo 5. Stabile al 1° posto il titolo che rimette tutti in forma, Wii Fit con Balance Board. E anche per questa settimana è tutto. A sabato prossimo da Stefano Gallarini. Game over. Tra poco una pausa e tra poco anche le notizie più importanti della settimana. Saluto Gianfranco Giardina, uno dei nostri esperti a 2024. Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Ti sei già connesso con il tuo tablet, oggi parleremo di che cosa? Parleremo di musica liquida, musica digitale in streaming. Hai fatto bene a dire musica liquida perché anche la musica del CD è musica digitale, ma le cose stanno oramai cambiando. Diciamo che chi usa il CD ormai è vecchio. Beh sì, a questo punto sì, diciamo. Alcune notizie della settimana. Digital News. Gli smartphone con sistema operativo Android sono i più venduti al mondo. Secondo la società di ricerca Canalys, nell'ultimo trimestre 2010 sono stati venduti 33 milioni di smartphone Android contro i 31 milioni con Symbian, i 16 milioni di iPhone e i 14 milioni e mezzo di BlackBerry. Per anni il Symbian della Nokia, lo ricorderete, è stato di gran lunga il leader del mondo. Poi nel 2007 a cambiare le regole del gioco è arrivato l'iPhone della Apple col proprio sistema operativo iOS. Un anno dopo usciva il primo telefono con Android, il software promosso da Google partendo da Linux che viene messo a disposizione di tutti i produttori che lo vogliono installare. Tra questi ci sono i principali LG, Samsung, Acer e HTC. Secondo Canalys le vendite totali di smartphone sono aumentate dell'89% rispetto al 2009 e hanno toccato quota 101 milioni di pezzi nel trimestre. Android o Android sarà pur il più venduto, ma l'iPhone continua ad attirare milioni di consumatori, tanto che dopo due ore sono esauriti gli iPhone 4 messi in vendita negli Stati Uniti da Verizon, il più grande operatore di telefonia mobile americano che rompe il monopolio di AT&T, che finora è stata l'unica compagnia a vendere il telefono della Apple. L'editore più grande e importante del mondo, Robert Murdoch, che l'11 marzo, tra l'altro, compirà 80 anni, ha presentato a New York il nuovo quotidiano digitale The Daily, progettato esclusivamente per l'iPad e in generale pensato per i tablet, che, dice Murdoch, diventeranno molto popolari. You know, I really believe that everybody in America who can afford one is going to buy a tablet. Credo che in America chiunque possa permetterselo comprerà un tablet. The Daily è stato lanciato con un investimento iniziale di 30 milioni di dollari, ha una redazione di 100 giornalisti e prezzi molto popolari. No paper, no multi-million dollar presses, no trucks. And we're passing on these savings to the reader, which is why we can offer The Daily for just 14 cents a day. Niente carta, nessuna tipografia multimilionaria, nessun camion. Trasferiremo tutti questi risparmi al lettore ed è per questo che possiamo offrire il Daily a 14 centesimi di dollaro al giorno, dice Murdoch. In realtà sono due le forme di abbonamento, annuale a 40 dollari, settimanale a 99 centesimi. Comunque così poco che secondo Murdoch nessuno ci bada più ad una cifra del genere sul conto della carta di credito. No one cares on their credit card, 99 cents. Digital News. Google ha presentato ufficialmente la versione 3.0 di Android, chiamata in codice Honeycomb, il nido d'ape, che, come ha detto Hugo Barra, responsabile dei prodotti mobile di Google, è stata specificatamente progettata per i tablet computer. Platform that we've designed specifically keeping in mind the creation of amazing apps that are optimized for tablet-sized computers. E in effetti saranno molti dalla primavera i tablet con questo sistema operativo, a partire dallo Zoom di Motorola, che potrebbe uscire negli Stati Uniti tra febbraio ed aprile. Nella stessa giornata Google ha presentato il nuovo Market per le applicazioni completamente navigabile via web e sul quale si potranno comprare le applicazioni sia per tablet che per smartphone. Digital News. Abbiamo anche una notizia dall'Italia. L'Istat ha aggiornato il paniere dei prodotti i cui prezzi definiscono il tasso di inflazione nazionale. Nel capitolo tecnologia escono i DVD a noleggio ed entrano i tablet. Digital News. Un'ultima notizia, nel 2010 alcuni hackers sono penetrati ripetutamente nei sistemi informatici della OMX, la società che gestisce il Nasdaq, la borsa tecnologica di New York. Secondo i servizi segreti americani e l'FBI, che indagano sul fatto, la piattaforma che fa funzionare la borsa non è stata compromessa. Pare che gli hacker si siano solo guardati attorno. Certo che anche questa notizia è sicuramente preoccupante e va inserita nella lunga scia di casi di spionaggio industriale che spesso vengono registrati negli Stati Uniti. Fortunatamente negli Stati Uniti queste notizie prima o poi escono e qualcuno dice: guardate che c'è stato un caso di spionaggio industriale. Pensate a tutti i casi di spionaggio industriale che non escono sulla stampa, non vengono divulgati e i tecnici ci dicono accade molto spesso anche in Italia, soprattutto in alcuni settori molto sensibili che naturalmente non vengono a dire pubblicamente: guardate che sono stato spiato magari da un paese straniero. 2024. Riprende 2024 il nostro numero verde 800 24 0024 per parlare con noi oggi di musica digitale. Adesso invece parliamo di social network, perché da giovedì 10 febbraio, quindi dalla prossima settimana, assieme al Sole 24 Ore troverete la prima di una serie di 6 guide che spiegano come promuovere la propria azienda sul web 2.0, come fare business con i social network. Si partirà, provate a dire con che cosa, con Facebook, guida curata da Luca Conti. Ci sono ormai oggi milioni di imprese nel mondo e anche in Italia che hanno capito che i social network, Facebook e Twitter, sono certamente spazi dove le persone comunicano, condividono, si scambiano informazioni, ma dove le stesse aziende possono in qualche modo intervenire e partecipare alle conversazioni che avvengono in questi spazi. Quindi è certamente un marketing, in particolare una comunicazione aziendale, che può beneficiare di questi strumenti, a patto che vengano usati non per lanciare messaggi promozionali come quelli che avvengono sugli altri media in televisione, ma che vengano usati per entrare in contatto diretto con i propri clienti in un'ottica di relazione e in particolare anche di servizio al cliente. Senti, quando tu parli di social network parli sostanzialmente di Facebook, c'è spazio anche per altri canali o molto poco? Dipende per cosa fare, perché Facebook è senz'altro il social network che in Italia è più utilizzato, su circa 25 milioni di italiani che navigano ogni mese, 18 milioni si collegano almeno una volta a Facebook, e quindi questo fa sì che Facebook sia l'argomento di discussione più popolare quando si parla di social network. Però non ci si può limitare ormai soltanto a Facebook, le opportunità si moltiplicano giorno dopo giorno. Un altro strumento che afferisce sempre al social web, di cui ancora si parla poco ma su cui invito a fare molta attenzione, è per esempio Groupon, che tra l'altro è stato oggetto di interesse da parte di Google, che ricordiamolo è sostanzialmente un sito dove si trovano delle buone occasioni d'acquisto, giusto Luca? Groupon è la fusione delle due parole group e coupon, nasce come sistema per fare acquisti in gruppo in rete con offerte speciali limitate che cambiano di giorno in giorno, e rapidamente sta diventando una piattaforma per tutte le attività commerciali di carattere locale che vogliono promuoversi e trovare nuovi clienti in rete. Questo è molto interessante, tra l'altro Groupon potrebbe essere una di quelle aziende che il prossimo anno sbarcherà in borsa. Sapete che negli Stati Uniti si sta discutendo, c'è anche un grosso dibattito su alcune aziende, a partire da Facebook. Qualche giorno fa è stata annunciata la richiesta per entrare in borsa da parte di LinkedIn. Ci sono una serie, insomma una lista piuttosto nutrita di aziende che vogliono entrare in borsa perché la tecnologia sta pagando molto bene, queste aziende vanno piuttosto bene. Del resto la scorsa settimana avevamo ospite il country manager in Italia di Google e ci ha detto che per Google in particolare, ma un po' per tutto il settore, le cose stanno andando bene. C'è chi si sta domandando: non è che dietro questo sbarco in massa di aziende high-tech.com c'è poi dietro l'angolo una nuova bolla delle dot-com? Vedremo che cosa accadrà. Gianfranco Giardina è il responsabile del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato, ciao. Grazie mille. Dunque, voi vi occupate anche, tra le altre cose, di musica liquida. L'abbiamo definita così perché è un settore molto interessante che, io ho detto nel sommario, sta per cambiare. Certo, le cose non accadono tutte in una settimana però ci sono molte novità. Sì, una volta compravamo i dischi in negozio, li portavamo a casa e li ascoltavamo, poi c'è stata l'era dove si potevano, che è un'era che è ancora in corso ovviamente, si potevano acquistare i file legalmente, scaricarli da internet per ascoltarli, oppure scaricarli illegalmente da internet per ascoltarli, e stiamo entrando velocissimamente in una nuova fase, una fase dove incomincia a prevalere il concetto di streaming, quindi il file non ce l'ho più, non mi serve averlo, anzi potrebbe anche darmi fastidio averlo, devo conservarlo, tenerlo in ordine, anzi, nelle cartelle. Anzi. Invece il file è nella nuvola, quindi è su internet da qualche parte, io ho il diritto di accesso a questi file, e la cosa interessante è che questi file potrebbero anche essere, come dire, illimitati in termini di catalogo, cioè tutto il catalogo disponibile della musica. Quindi anche quello che non ho ancora pensato di voler ascoltare, ma che di colpo potrei aver voglia di ascoltare. Ecco, questo è una nuova modalità di fruizione che è resa, come dire, ancora più interessante dalla pervasività dei collegamenti a internet in mobilità, quindi smartphone, tablet, qualsiasi altro apparecchio ci sia in mobilità, e ci aggiungo, anche se qualcosa si sbloccherà mai in Italia su questo fronte, anche dagli hotspot wifi pubblici liberi non appena saranno resi disponibili in maniera più importante anche da noi. Faccio una parentesi sul wifi, visto che molti ascoltatori ci scrivono prevalentemente, ci dicono in Italia non ci sono molti hotspot, questo è un problema prevalentemente culturale, nel senso che è il negoziante, l'albergatore che non ritiene opportuno installare un hotspot, anche se è vero che a livello legislativo non tutto è stato chiarito e stiamo aspettando qualche chiarimento che speriamo arrivi presto, perché è vero che si è sbloccata la situazione dal 1 di gennaio, ma non tutto appunto è chiaro. Io sono un esempio di una persona che ama la musica, però faccio molta confusione con i file. Compro un buon numero di canzoni, non le scarico. Ogni tanto, quando proprio non trovo nulla, devo dire che insomma qualche cosa l'ho scaricato anche illegalmente, ma veramente molto, molto poco. Però effettivamente uno in questa situazione ha un caos pazzesco, perché dove sono i miei file? Poi ho cambiato il computer, ho lasciato qualcosa nel vecchio computer, un po' di cose c'era nel lettore MP3. Tra l'altro si sommano anche file, come dire, scaricati legalmente ma liberi da DRM, quindi che possono essere comunque copiati, masterizzati, riprodotti su quanti device voglio, a file che invece vanno sempre meno di moda, devo dire la verità, ma che hanno il DRM, quindi che hanno un numero limitato di device sul quale posso usarli, e quindi con delle limitazioni alle quali posso pensare o non pensare, e dovrei tenerli separati questi file, ricordarmi quali hanno il DRM, stare attento a non perdere i certificati, insomma non è sempre così semplice. Giusto per capire, visto che stiamo parlando appunto di servizi in streaming, quindi che si utilizzano mentre siamo collegati ad internet, però rimane naturalmente importante anche il lettore MP3 di file. Allora, per capire come sta andando il mercato, abbiamo sentito Giancarlo Scalco, che è direttore del negozio d'arti di Torino. Ma in generale questa famiglia di prodotti qua si è un po' rallentata a livello di vendite, anche a livello di punto prezzo in effetti è diminuito il valore, quindi ha un'incidenza più bassa rispetto alla precedenza. Senta, nel particolare quali sono i prodotti che vendete di più? Adesso attualmente si iniziano a vendere prodotti MP3 che comunque hanno anche funzionalità video, quindi la possibilità della lettura MP4 o comunque archiviazione di foto. L'iPod rimane sempre il prodotto del desiderio o ci sono altri prodotti che hanno cominciato a farsi spazio? Sicuramente l'iPod è quello che ha il volume maggiore sia in fatturato che in pezzi venduti, perché comunque rimane sempre sulla cresta dell'onda. Senta, avete notato un fenomeno di cannibalizzazione di questo prodotto da parte dei telefonini, che diciamo gli smartphone che di fatto insomma fanno anche da lettori MP3? Sicuramente c'è un calo di attenzione sul lettore MP3 visto le potenzialità che attualmente hanno gli smartphone. Ormai tutti i telefoni hanno la possibilità di inserire una scheda di memoria, quindi di conseguenza vengono utilizzati sicuramente come lettore MP3. A proposito di musica digitale, c'è qualcuno che è entrato nel negozio e vi ha chiesto: vorrei una radio che si collega a internet? No, attualmente no, nessuna richiesta del genere. solo io potrei entrare, io è una percentuale molto bassa, potrebbe entrare in un negozio chiedendo: scusa, avete una radio che si collega? Perché queste radio sono effettivamente diffuse, anzi sono molto belle, ma ha ragione Gianfranco Giardina a dire che probabilmente un tipo di prodotto del genere, soprattutto il cliente tipo di un prodotto del genere, compra online. Con noi oggi dalla redazione di dday.it c'è anche Paolo Centofanti, benvenuto a 2024. Grazie Paolo. A voi. Dunque Paolo, a proposito di servizi dai quali possiamo prendere musica da internet, ci sono, voi avete individuato tre tipologie sostanzialmente, quali sono? Sì, essenzialmente abbiamo tre tipi di servizi. Abbiamo il primo che è arrivato sul mercato nel 2003 con Apple e con iTunes, che è appunto quello dello store digitale da cui posso scaricare i brani. Poi abbiamo l'evoluzione di quella che è la radio, o comunque la web radio interattiva, dove praticamente l'ascoltatore riesce a ricevere la musica in base ai suoi gusti personali, ma non può ancora scegliere perfettamente la canzone. E poi abbiamo proprio quello che è il servizio di streaming vero e proprio, ovvero una libreria più o meno sterminata di canzoni, e l'ascoltatore può scegliere esattamente la canzone che vuole ascoltare, l'album e così via. E di questo parleremo nella puntata di oggi. Chiamateci per parlare con noi, sia per farci domande ma anche per le vostre considerazioni, al nostro numero verde, il numero gratuito di Radio 24, 824 0024. A tra poco. 2024. Di nuovo in diretta con 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, tra poco sentiremo anche la vostra voce. Oggi il nostro tema principale è la musica digitale online, la musica liquida. Ci sono un sacco di servizi, oggi con noi Gianfranco Giardina e Paolo Centofanti dalla redazione di dday.it. Dunque Paolo, abbiamo detto che ci sono sostanzialmente tre servizi che abbiamo individuato, cioè i classici negozi dai quali noi compriamo musica, quindi l'iTunes e tutti quelli che poi sono nati in concorrenza con iTunes. Noi andiamo, ci colleghiamo, paghiamo e scarichiamo una musica. Costa normalmente? Sui 90 centesimi, 1,29 euro. Ok, e quindi dipende. Prezzi abbastanza popolari. Però in questo caso noi scarichiamo un file, e quindi poi una serie di file che dobbiamo utilizzare sul nostro o telefonino, che fa anche da lettore MP3, oppure sul nostro lettore MP3, iPod che sia, eccetera, eccetera. La cosa invece interessante, visto che questi negozi ormai esistono da... diciamo iTunes è aperto nel 2003, quindi insomma andiamo verso i 10 anni. Esatto. La cosa invece interessante è l'esplosione di questi servizi in streaming. Partiamo da alcuni servizi che stanno a metà tra la radio e invece i servizi di cui vogliamo parlare oggi. Voi sapete che su internet si possono ormai ascoltare decine, centinaia, migliaia di radio che fanno musica di tutti i tipi. Se a uno piace il jazz, non ci sono solo le radio di jazz, sono quelle di jazz classico, di smooth jazz, di new jazz, eccetera, eccetera. Sono molto semplici, una lista di canzoni che però sono decise dall'editore di questa radio. Invece tu hai individuato servizi che sono un po' interattivi, cioè sembrano delle radio, ma cosa fanno in più? Sì, esatto, la parola, la chiave giusta è proprio interattività, nel senso che a differenza di una radio tradizionale, che quindi appunto la programmazione è scelta dall'editore, in questo caso la programmazione si adatta in base ai gusti dell'ascoltatore. Un esempio, anzi forse il migliore esempio in assoluto di questo tipo è Pandora, che è un servizio che per adesso è disponibile solo negli Stati Uniti, dove essenzialmente... l'utente arriva sul sito, inserisce il nome di una canzone o di un artista che gli piacerebbe ascoltare, il servizio propone una prima canzone in base alla scelta dell'utente e poi in base a un algoritmo abbastanza sofisticato comincia a proporre delle canzoni che potrebbero essere attinenti a quella scelta dell'ascoltatore. Cioè praticamente io vado, scelgo Lucio Dalla, esatto, dopo un po'... lui mi propone la canzone di Lucio Dalla e poi comincia a propormi degli artisti simili, ad esempio De Gregori. Per ecco, dire. Dopo un po' lui dice, secondo me... a te, Enrico Pagliarini, piacciono piacere questi artisti. Questa cosa. No, il punto è che appunto è interattivo, per cui a ogni canzone che Pandora mi offre, io posso dire se mi piace o non mi piace. A differenza di altri servizi più o meno simili, che essenzialmente effettuano la scelta delle canzoni in base al genere oppure al periodo storico a cui appartiene o al movimento a cui appartiene l'artista, Pandora utilizza un sistema che si chiama Music Genome Project, dove analizza proprio le caratteristiche della canzone. Per caratteristica della canzone si intende la melodia, l'armonia, i tipi di strumenti, il ritmo, i testi. Quindi così. Il risultato finale è che Pandora è piuttosto brava nel suggerire canzoni. Senti, costa qualche cosa o no? No, è gratuita. È gratuita. E invece servizi del genere ce ne sono in Italia? Così no. Simili? Esistono simili, sempre stranieri, internazionali. Tipo? Tipo Sonza, si chiama. Oppure... Last FM è uno di questi? Last FM è qualcosa di ancora un pochino diverso. È sempre essenzialmente un servizio che offre delle radio personalizzate, o comunque insomma interattive, però è anche più strutturato a modo di social network. Essenzialmente quello che fa Last FM, mi fa installare un softwareino sul mio PC da cui ascolto i miei MP3 e prende traccia sul mio profilo di tutte le canzoni che ascolto. Quindi lui crea praticamente una specie di immenso database delle canzoni che io ascolto. E in base ai miei ascolti, quindi a quello che effettivamente io sto ascoltando, mi propone o una radio interattiva costruita in base appunto a quello che io sto ascoltando, e poi una lista di altri ascoltatori iscritti alla StFM, che appunto questo è l'aspetto social. Ok, chiaro. Beh, insomma, comunque sostanzialmente anche questo è un sistema che mi suggerisce alcune cose. Esattamente. Gianfranco, oggi però noi abbiamo scelto di parlare soprattutto di streaming, perché forse questa è la vera novità, perché anche Pandora lo conosciamo da un po' di tempo. Sì, la novità introdotta dallo streaming e dallo streaming di un catalogo ampio a piacere, se possibile infinito, è il fatto di avere un'offerta legale che per la prima volta fa qualcosa in più rispetto alla concorrenza dell'offerta pirata, dell'offerta illegale. Perché fino... tu hai sempre detto, questo io lo ricordo bene perché è il punto centrale, tu hai sempre detto, e io condivido, finché tutto quello che io trovo pirata è meglio dell'offerta legale, sarà difficile combattere questo sì, mercato. Perché, innanzitutto perché è a costo zero, ma poi è meglio perché l'offerta pirata non aveva problemi di DRM, spesso posso scegliere una qualità in alcuni casi anche migliore di quell'offerta dagli store legali. E nel caso dello streaming invece, lo streaming su tutto il catalogo, quindi diciamo con modalità ad abbonamento, io pago un abbonamento mensile e posso accedere a tutto il catalogo, ecco che per la prima volta ho accesso a un servizio assolutamente nuovo, cioè mi viene in mente una canzone, parlo con un amico, mi suggerisce un artista, una canzone, io subito dal mio telefonino, per esempio, posso schiacciare play e sentire quella canzone. Quindi non devo preoccuparmi di scaricarla né legalmente né illegalmente, accedo direttamente alla library del servizio, ho diritto di ascoltare qualsiasi cosa per un tempo limitato, ovviamente, quindi per un mese, per un anno, a seconda dell'abbonamento che ho fatto, e posso ascoltarlo subito, immediatamente. Questa è la grossa novità. Quindi in una fase anche di mercato in cui anche la fruizione musicale è un po' meno feticistica rispetto a quella che fu negli anni d'oro del vinile e del disco, il prodotto musicale si ascolta, si consuma e tutto sommato si getta via anche abbastanza velocemente, poter avere accesso al volo al disco del momento, a quello che ho voglia di sentire, oppure semplicemente a una vecchia traccia in qualsiasi momento e quando me ne viene voglia, è un servizio che oggi la pirateria non offre in maniera semplice, diciamo così. Saluto Stefano Martinelli, che è responsabile della divisione musica di Dada. Benvenuto Martinelli. Buongiorno, salute a tutti. Voi avete un servizio che si chiama Reply Me, che è Play Me, esatto, ho aggiunto un re, che sostanzialmente è uno streaming di musica illimitato su abbonamento, ma ce lo spieghi lei che cos'è? Sì, esattamente, è esattamente quello, diciamo, in linea con quello di cui stavate parlando, nel senso che attraverso un abbonamento mensile... Quanto costa? 4,99€ al mese. L'utente, diciamo il nostro cliente, ha la possibilità di accedere a una libreria, diciamo, enorme di oltre 6 milioni di brani in totale libertà, quindi può effettivamente navigare, ascoltare ciò che vuole per quanto tempo vuole, quindi è illimitato da questo punto di vista, senza necessità quindi di scaricare nulla. Ovviamente per quelli che sono eventuali necessità particolari è compresa la possibilità di anche effettuare in aggiunta il download, che può essere acquistato in pacchetti ad un prezzo, diciamo, vantaggioso per chi ad esempio poi comunque vuole diciamo farsi un CD o comunque portarsi. Senta Martinelli, visto che una delle domande che più spesso ci fanno è stiamo parlando di un servizio che funziona via internet. Allora, naturalmente quando non c'è internet il servizio non funziona, ma visto che si stanno diffondendo, l'abbiamo detto anche noi all'inizio, gli smartphone. E tra l'altro abbiamo detto che nell'ultimo trimestre Android è la piattaforma più venduta, anche se alcuni credono che sia iPhone. Ecco, a questo punto sugli smartphone è possibile ascoltarlo questo servizio allo stesso prezzo oppure no? Sì, diciamo che dal punto di vista della, proprio del concetto di music in the cloud, quindi di musica su internet. Esatto, di musica connessa essenzialmente. Il cliente ha la possibilità di, con le proprie credenziali, di sottoscrivere un profilo di abbonamento particolare che proprio prevede la possibilità di accedere solo attraverso PC, quindi il proprio uno o N computer, perché ovviamente non è legata a un computer specifico. Sì. Quindi anche su smartphone. Anche su smartphone, esattamente. Android sia, e iPhone. Esattamente, sia iPhone che Android, sì. In un secondo, quanto costa? Questa, diciamo, opzione costa 9,99 euro. Perfetto, ci risentiamo tra poco, la richiamiamo sul telefono fisso perché così si sente meglio, poi sentiamo anche Paolo che ci chiama da Roma. Numbers 2024. Numbers. L'utilizzo della banda larga da parte delle imprese europee si attesta all'82%. Finlandia, Spagna, Malta e Francia sono i paesi con la percentuale più alta. E l'Italia che percentuale ha di imprese che utilizzano la banda larga? Numbers 2024. Oggi parliamo di musica digitale, il nostro numero verde 800 24 0024. Sentiamo Paolo che ci chiama da Roma. Io volevo sollevare il problema della qualità della musica che si sente in streaming. Per esempio, io sono un amante dell'alta fedeltà e ascoltare la musica che al massimo arriva a 128 kbps mi trovo un po', cioè non mi piace, vorrei che si raggiungesse magari una qualità FLAC se possibile. Sì. Allora le posso dire che, grazie di averci chiamato Paolo, le posso dire che purtroppo questo problema è un problema sentito da molti pochi consumatori, quindi le aziende un po' se ne fregano. Tuttavia penso che Martinelli abbia una risposta, però devo dare io una risposta alla nostra rubrica Numbers. Vi abbiamo domandato quante sono le aziende che si collegano con banda larga, visto che in Europa ci sono percentuali piuttosto alte. In Italia siamo all'83%, siamo poco sopra la media europea, ma rimaniamo distanti da altri paesi. 10 punti sopra sono ad esempio la Spagna, la Francia, 9 punti sopra di noi, 5 la Germania. Però devo dire che dal punto di vista delle aziende non siamo messi malissimo. Martinelli, sulla qualità, è vero che sono pochi i consumatori che sono preoccupati di questo? Sicuramente, diciamo, esiste una fetta di mercato che non percepisce magari la differenza. Esiste comunque una buona fetta di clienti, soprattutto quelli che usano in modo intensivo il servizio, che invece apprezzano molto il fatto che ad esempio i file siano serviti con una qualità particolarmente elevata, tipo 320 kilobit al secondo, per intenderci, che è una qualità ovviamente non simile, è molto simile a quella del CD, anche se non è quella del CD. Anche sui telefonini, anche sugli smartphone riuscite a garantire? Dipende, nel senso che tipicamente legato alla tipologia di connessione, perché ovviamente se si è collegati con uno smartphone attraverso Wi-Fi, sì, riusciamo a servire questo tipo di qualità. Se invece si è collegati in 3G, si è preferito essenzialmente diciamo dare più peso a quella che è la fluidità e la velocità di ascolto, perché ovviamente il file trasferito sarebbe di dimensioni un po' corpose per una connessione 3G e quindi si preferisce avere una qualità leggermente inferiore, più che altro per appunto un discorso di fluidità e di immediatezza all'atto del, diciamo, dell'ascolto. Sì, chiaro. Gianfranco, un problema che forse è uno degli svantaggi è che, allora, abbiamo detto, quando non c'è internet è un problema, però io devo dire che il grandissimo vantaggio che supera tutta una serie di svantaggi è che non devo più organizzare nulla. io mi iscrivo a un servizio, faccio la mia playlist, metto in fila le canzoni. Assolutamente, io ieri sera ho ascoltato da casa, oggi ho ascoltato da qua, da Radio 24, la stessa compilation. Sì, con il vantaggio che se è il telefono, il device col quale accediamo in mobilità al servizio di streaming, chiaramente il telefono funzionerà poi anche a casa, magari appoggiandosi alla nostra wifi, quindi ancora meglio. E dal telefono sempre più sarà possibile inviare senza fili, oppure appoggiando in una docking, il segnale audio che riceviamo anche sugli impianti hi-fi di casa, sugli impianti domestici. Certo che la qualità resta comunque un aspetto molto importante, almeno per vecchi audiofili come noi. Ecco, visto che questo tema è un tema che, ho capito, piace a molti ascoltatori, quello della qualità, Paolo Centofanti ha una risposta, cioè ci sono dei servizi che stanno cercando di pompare da questo punto di vista. Sì, non ancora con lo streaming, diciamo che lo streaming è il problema della qualità, comunque per quanto riguarda la qualità a livello CD, diciamo, bisogna ancora aspettare un attimo. Per quanto invece riguarda gli store digitali, quindi appunto dove posso acquistare dei file da scaricare, esistono degli store appunto dedicati agli appassionati di alta fedeltà, che offrono non solo tracce, si dice senza perdita, quindi non compresse come l'MP3 e quindi con qualità CD, ma anche addirittura tracce ad alta risoluzione, quindi si parla di tipo 96 kHz, 24 bit, eccetera. Un esempio è HD Tracks, che è un sito americano che offre appunto anche diverse etichette specializzate in materiale per audiofili e così via. Si compra anche dall'Italia? Si compra anche dall'Italia con PayPal o carta di credito. HDTracks.com. Stefano Martinelli, YouTube è un vostro concorrente? Perché giustamente oggi, parlando in redazione, una persona mi ha detto: vabbè, io la musica l'ascolto da YouTube gratis. Sì, sicuramente, diciamo, è un concorrente da questo punto di vista, soprattutto per gli utenti un po' mordi e fuggi. Ciò che ovviamente differenzia è più che altro la possibilità, attraverso un servizio come PlayMe, di poter costruire non solo una esperienza musicale attraverso le proprie playlist, ma anche di farsi guidare attraverso altri tipi di esperienze, diciamo, di percorsi musicali che noi offriamo dal punto di vista editoriale ai nostri ascoltatori. Questo ovviamente differenzia un servizio di streaming tipicamente da un'esperienza come YouTube, che invece è un po' cherry picking essenzialmente. Comunque sì, lei ha ragione, sicuramente c'è un overlap. Questo cherry picking è bellissimo, cioè l'esempio di chi prende le ciliegie a una, ma magari insomma in modo anche un po' disorganizzato mentre fa altro. Un'altra domanda interessante anche per capire l'evoluzione del mercato. Allora, so che Fastweb ha un servizio di questo genere che utilizza la vostra tecnologia, quella di Dada e di PlayMe. Voci di mercato ci dicono che entro poco tempo, forse pochi giorni, anche Telecom Italia dovrebbe lanciare un servizio di streaming. È possibile che in futuro quasi tutti gli operatori telefonici che offrono la banda larga, quindi banalmente ci danno l'accesso a internet con la DSL o con qualcos'altro, ci diano anche ad un prezzo molto popolare lo streaming, e sia anche un modo, diciamo, del settore musicale per cercare di combattere la musica, cioè tutto ciò sia un po' supportato, spinto dal settore della musica. Ma sicuramente questo è un trend molto interessante, che non c'è solo tra virgolette in Italia, ma si può notare sotto diverse forme anche all'estero, che ovviamente in Italia assume una diciamo una notazione un po' particolare, proprio per anche le caratteristiche peculiari in termini della diffusione, diciamo della limitata diffusione dell'utilizzo legale, diciamo, della musica, che ovviamente questo tipo di iniziative risultano essere in tal senso molto importanti. È ovvio che per quanto ci riguarda, il fatto di avere una piattaforma che di fatto è totalmente aperta in questo senso per lo sviluppo da parte di partner come appunto Fastweb ha citato, facilita molto delle realtà di tali dimensioni che vogliono entrare molto velocemente in questo mercato a poter proporre un servizio integrato totalmente all'interno della loro user experience e quindi della propria, diciamo, base clienti in tempi ragionevoli e relativamente brevi da questo punto di vista. Sì. Paolo Centofanti, abbiamo parlato di PlayMe, che è un servizio realizzato da una società italiana per il mercato italiano, quali altri servizi ci sono per un consumatore italiano? Ad esempio, io in questi giorni mi sono iscritto a Curiosity. Mi piaceva molto il nome, quindi mi sono che è di Sony. Sì, esattamente, ci sono, diciamo, le più grosse novità in questo momento sono appunto i due giganti, uno che è Sony e l'altro che è Microsoft, Sony con Curiosity e Microsoft con lo Zoom Pass. In entrambi i casi tratta, come Play Me, di un'offerta in streaming su un catalogo più o meno di, spara sempre 6 milioni di brani, in cui l'utente si iscrive, paga una quota fissa, si parla di 4 e 9 euro a seconda del servizio di Sony e 9,99 euro per Microsoft, e accedo in streaming a un'offerta, insomma, un catalogo molto ampio in cui scelgo io la canzone o l'album da ascoltare. E in più Curiosity offre anche delle radio personalizzate, come quelle di cui parlavamo prima, e una versione premium addirittura oltre 100 canali tematici tra cui scegliere. Curiosity è interessante perché è disponibile non solo su internet, ma appunto anche sui dispositivi Sony, che sono i televisori Bravia, sui lettori Blu-ray e sulle console da gioco PlayStation e PSP. Questo, Gianfranco, è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè l'essere legati a Allora, sicuramente un servizio di questo tipo è più potente, tanto più sono gli apparecchi ai quali possiamo accedervi. Quindi sicuramente il computer, e questo lo fanno tutti. Meglio ancora quelli che offrono, come abbiamo visto, anche l'accesso dagli smartphone. Accedere anche dai TV o dai lettori Blu-ray o dalle console, che tutte oramai, almeno quelli di un certo livello, sono dotati di una presa di rete, beh, è un bel valore aggiunto. Purtroppo il servizio offerto da Sony è accessibile solo con i TV Sony, e quindi se uno non ha un TV Sony non può accedere a quel tipo di servizio dal TV, per esempio, e quindi è una limitazione. Se mai, per esempio, si affermeranno piattaforme più comuni di Smart TV, penso per esempio alla Google TV, è chiaro che potrebbe essere facile per chiunque sviluppare un'applicazione su Google TV, che poi sarà una cosa molto simile a Android, per rendere compatibile il proprio servizio anche con tutte le Google TV di qualsiasi marca escano. E quindi ci aspettiamo nei prossimi anni una grossa convergenza da questo punto di vista, per far sì che questi servizi, che sono solo all'inizio, che diventeranno migliori anche come qualità quando la banda sarà più disponibile per tutti e sarà in misura chiaramente maggiore, e il numero di apparecchi ai quali potremo accedervi sarà sterminato, sperando che ci sia poi una piattaforma comune che renda tutti i servizi accessibili a tutti gli apparecchi, che è l'obiettivo comune. Il nostro numero verde 800 24 00 24 lo ha chiamato Davide, che abbiamo richiamato dalla provincia di Modena. Davide, benvenuto. Buongiorno e grazie. Volevo innanzitutto farvi i complimenti per il programma che io seguo ormai da anni. Bravo. La mia domanda era questa: visto che ormai la connettività broadband mobile è diventata di qualità discreta, ricollegandoci al discorso di prima delle radio, sono state fatte delle autoradio connesse a internet? Insomma, io posso usare un servizio come Pandora su un autoradio? Bellissima domanda, sì. Perché infatti qua sta il nodo. Grazie Davide e buon ascolto. Dunque, non so se avete centofanti sarà sempre tutto, quindi forse poi chiediamo anche a Martinelli. Diciamo, in questo senso gli Stati Uniti sono abbastanza avanti, ad esempio Ford ha presentato già lo scorso anno e poi l'ha ripresentato ancora in maniera più evoluta all'SES di Las Vegas proprio giusto il mese scorso, un sistema di car stereo appunto con connettività 3G che permette tra le altre cose appunto di accedere ad esempio a Pandora, quindi Pandora in... Ma lo ha presentato ed esiste sul mercato oppure no? Sì. Ah, esiste. Negli Stati Uniti, quantomeno. Adesso non so bene i piani per l'Europa, giusto perché questi servizi in Europa sono ancora più limitati. Gianfranco. La cosa si può chiaramente provare e fare anche in Italia, a patto di avere una buona copertura con uno smartphone. E se lo smartphone accede a una rete 3G e accede a questi servizi di streaming, io posso collegare lo smartphone alla mia autoradio. È un po' più macchinoso che avere direttamente la navigazione sull'autoradio, però abbiamo visto a Las Vegas, a recente Consumer Electronics Show, anche dell'autoradio che montano Android come sistema operativo. Quindi potrebbe essere facile che in un futuro anche prossimo applicazioni di questo tipo vengano implementate. Android everywhere, anche questo sarà un problema. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, più tardi parleremo anche del gruppo degli Anonimi, quelli che hanno supportato e supportano WikiLeaks con un'intervista che abbiamo realizzato a un anonimo appunto, che non si presenta con nome e cognome, abbiamo realizzato via Skype, poi parleremo anche di e-government, stiamo parlando di musica digitale online. Volevo chiedere a Stefano Martinelli se lui sa di autoradio o comunque di aziende automobilistiche che stanno per offrire anche sul mercato europeo autoradio che si possono collegare al web, o meglio a internet. Ma guardi, sono discorsi che diciamo abbiamo avviato come PlayMe. In questo momento non abbiamo però ancora una realtà diciamo prossima alla realizzazione essenzialmente, quindi no, non ho notizie di imminenti di questo tipo di attività. Quindi, sicuramente però questo va nell'ottica di avere un servizio appunto musicale internet, un servizio musicale laddove io posso accedere alla mia musica da tantissimi device, quindi giustamente si è detto il computer, lo smartphone, ma a questo punto anche a casa come home entertainment, la TV e non per ultimo la macchina, quindi in modo da avere la musica che effettivamente mi segue sui vari device che mi accompagnano nei miei tragitti, potendo quindi parlare appunto di musica connessa. Sì. Senta Martinelli, se io vado all'estero e pago l'abbonamento a voi, visto che ci sono problemi effettivamente da nazione a nazione per problemi di diritti, perché siamo nel medioevo da questo punto di vista, le major musicali non è che si sono adeguate molto a questo mondo che cambia molto velocemente. Allora, visto che abbiamo detto insomma, Pandora si può ascoltare solo se si è negli Stati Uniti, nel vostro caso io pago l'abbonamento a voi, poi vado in vacanza in Gran Bretagna? Diciamo che per periodi di tempo limitati è possibile ascoltare e usufruire del servizio all'estero, sì. Ok, chiaro. Sandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, io chiamo perché volevo portare la mia esperienza del portale musicale Rock It. È un portale che si occupa di musica italiana, forse non è un portale molto conosciuto, però è il database più importante di gruppi italiani a livello nazionale, cioè non esiste un sito con così tante band di una sola nazione. Noi presentiamo diversi streaming ogni settimana e la cosa che volevo un po' come contributo portare era che lo streaming è un mezzo di promozione molto importante, perché ormai che il supporto disco non esiste più, noi siamo spesso sorpresi da gruppi sconosciuti che riescono a fare dei risultati a livello di click quasi, non dico vicini a quelli che potrebbero essere i risultati di nomi molto più noti, però c'è questa possibilità molto più frequente di essere stupiti dai risultati che si hanno con un disco in streaming. Quindi tu, Sandro, dici, così come accade per un piccolo negoziante che si può offrire al mercato, avere un sito internet e magari raggiungere un pubblico vasto come fa lì l'IBM che fino a qualche tempo fa non era possibile, così la piccola band su un sito internet può proporsi e raggiungere lo stesso pubblico che raggiunge Madonna, Vasco Rossi, Lucio Dalla. Paragoni sono pesati, perché comunque c'è, però ovviamente non dico niente di nuovo, cioè non è niente di innovativo ad oggi, però noi continuiamo a rimanere stupiti di questa cosa, stupiti e anche di questa attenzione che rimane costante. Chiarissimo. Cioè, noi credevamo che fosse una mania passeggera, che poi tutti invece noi continuiamo a vederlo come fenomeno in crescita. Paolo, c'è un, visto che qualche ascoltatore ce lo segnala, ma lo vedo anche nella lista di quelli che tu hai individuato, c'è un sito di streaming gratuito che si chiama Groove Shark. Che cos'è e come si usa? Ma è essenzialmente analogo agli altri servizi di cui abbiamo parlato fino adesso, con la differenza che è totalmente gratuito. L'utente va sulla pagina principale, mette dentro l'autore o il titolo della canzone che vuole ascoltare, e immediatamente viene proposta una lista di brani, tra cui appunto quello che si è cercato, e si inizia ad ascoltare. Si possono fare playlist, si possono organizzare raccolte, condividere con gli amici sui vari social network, Facebook, Twitter, eccetera, e ascoltare appunto anche album interi. La cosa che lo differenzia un po' dagli altri è il fatto che Groove Shark non propone un catalogo suo di brani come fanno gli altri, con accordi con le major, le etichette, eccetera. Ma invece si avvale dei contenuti caricati dagli utenti. Ovvero io arrivo sul sito, se non trovo la canzone che mi piace, ma magari ce l'ho sul mio hard disk come MP3, posso caricarlo su Wolfshark e poi riascoltarlo da un'altra parte, se sono fuori casa, comunque col portatile, attraverso internet e così via. Martinelli, questo è un concorrente piuttosto forte, visto che è gratis. Ma sì, da questo punto di vista sì, poi sull'aspetto diciamo della legalità di tutta questa operazione è un'area ancora tra virgolette grigia da questo punto di vista. Ovviamente come ha giustamente detto, diciamo il servizio offerto da altre tipologie di servizio prevede comunque gli accordi con le case discografiche, quindi gli aventi diritto, e quindi una distribuzione che è effettivamente 100% legale. Sì, Gianfranco. Un'altra cosa che va forse aggiunta è che essendo un servizio Grooveshark che nasce appunto da questa diciamo condivisione di file da parte di tantissimi utenti, non esiste uno standard qualitativo, quindi si parlava prima di qualità, alcune canzoni potrebbero essere per esempio un'ottima qualità e altre una qualità molto bassa, quindi non c'è nessun tipo di garanzia da questo punto di vista e ovviamente non ci si può lamentare con nessuno. Certo, beh, gratis. Quindi... Certo. Marco da Milano, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Prego. Complimenti per il programma. Volevo farmi una domanda. Ho sentito delle radio, quelle autoradio, che si collegano a internet. Sì, cioè che non esistono. Cioè c'è qualche cosa negli Stati Uniti, ma c'è ancora poco. Che non esistono. Ma a proposito della centralità dello smartphone, non potrebbe esistere un modo di collegare lo smartphone sia all'autoradio che all'impianto alta fedeltà di casa e quindi avere uno smartphone che si collega a internet e ascolto la radio sul web sia a casa appoggiandola ad esempio in qualche modo sullo stereo di casa, poi lo porto in macchina, poi lo porto in ufficio, poi lo porto da qualche altra parte sì. Ho il modo di ascoltare avendo solo uno smartphone piuttosto che... Chiarissimo. Perché poi immagino che l'autoradio debba avere dentro di sé una schedina, una SIM. Sì, ma di fatto collegare le antenne in giro. Grazie Marco, di fatto arriveremo anche a quello, cioè io ho parlato anche con degli americani, quasi tutti ti dicono quest'anno vedremo già alcune macchine, ma del resto Paolo Centofanti ce lo diceva, con l'autoradio connessa a internet, quindi immagino che nel giro di 4-5 anni quello sarà lo scenario. A proposito della centralità dello smartphone, questa sta diventando effettiva per tante altre cose, lo diventerà sempre più anche nel caso della musica, e Gianfranco Giardina prima ci accennava questa cosa, giusto? Sì, già si può fare oggi chiaramente con lo smartphone sia a casa sia in macchina. Qualcosa in più forse possiamo aggiungere: a Las Vegas abbiamo visto anche un autoradio che di fatto non ha un display ma ha una docking station per iPhone, quindi si inserisce l'iPhone e si può stare sia in orizzontale che in verticale a seconda come si vuole, e l'iPhone diventa lui stesso il display dell'autoradio con un'applicazione specifica, e quindi è anche questo un'integrazione. Un altro punto, non c'entra necessariamente con la musica ma è molto importante, è quanto ha presentato sempre Las Vegas Motorola, facendo vedere uno smartphone che di fatto diventa un computer completo, con delle docking station, con degli accessori, ma semplicemente con degli accessori, tutta l'intelligenza, tutti i file, tutta la connettività resta all'interno del telefono, che diventa un computer, un qualcosa di più di un semplice telefono. Ormai dobbiamo abituarci che gli smartphone sono dei compagni di vita quasi costanti per tutte le attività di produttività e anche di intrattenimento, e quindi la musica passerà sempre più tramite lo smartphone. Credo anch'io, come crede il nostro ascoltatore, che addirittura più che avere degli impianti hi-fi come quelli di oggi, che magari sono in grado di collegarsi a internet per sentire delle radio su internet, saranno semplicemente degli impianti hi-fi in grado di connettersi con lo smartphone. E allo smartphone sarà destinata completamente tutta l'attività di connettività verso internet e verso la musica, perché è evidente che se ho la mia applicazione per smartphone la potrò usare a casa, in macchina, in mobilità, sul treno, dovunque. Martinelli, ho la sensazione che stiamo parlando di un servizio ancora poco utilizzato dagli utenti, o comunque ancora poco conosciuto. Non so se lei ci può dare dei numeri sul vostro servizio, visto che voi siete i principali erogatori di una cosa del genere in Italia. Cioè, le dimensioni di questo fenomeno visto nel mercato più ampio della musica, visto che voi vendete anche file fisici. Allora, sicuramente dal punto di vista, diciamo, dell'utilizzo del servizio, questo sta crescendo di mese in mese, perché piano piano, soprattutto il mercato italiano, a differenza di quello statunitense, che è più maturo da questo punto di vista, sta conoscendo e avvicinandosi a quei concetti che avete ben descritto prima, quindi al fatto, diciamo, di non dover più, tra virgolette, possedere un file fisico, ma poter accedere a un servizio musicale e di conseguenza a una libreria anche molto più ampia. In questo vediamo una risposta del mercato molto interessante, perché comunque sono sempre di più gli utenti che capiscono il valore di questo tipo di approccio, soprattutto laddove si riesca a far effettivamente fruire la musica su più device. Quindi ad esempio attualmente PlayMe può essere usufruito non solo da smartphone e da PC, ma anche attraverso alcune connected TV o set-top box, quindi diciamo di questi apparecchi che si connettono poi alla televisione, che permettono effettivamente all'utente di poterlo di far sì che la musica lo possa seguire ovunque. Martinelli, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, buon weekend, a presto. Grazie a voi. Gianfranco, abbiamo l'ultimo minuto per dire che questi servizi sono tutti, a parte Groove Shark e qualche altra cosa, YouTube ad esempio, ma che però abbiamo capito, insomma, che è un po' diverso, sono servizi a pagamento e a pagamento con la carta di credito. Sì, anche se il costo è molto moderato, perché praticamente io ascolto per un mese intero con quello che mi costava prima l'acquisto di 4-5 file, di 4-5 canzoni, invece ascolto tutto quello che voglio per un mese, però si paga con la carta di credito. E attenzione soltanto che anche quando si attivano degli abbonamenti test, prova, che sono gratuiti normalmente per un periodo limitato, va comunque inserita la carta di credito, e se non si disattiva l'autorinnovo dopo un mese si comincia a pagare. Si comincia a pagare, semplicemente si può provare, anzi è molto bello provare, semplicemente stare attenti a questo aspetto. E ricordiamo anche che scaduto l'abbonamento, cioè se non rimaniamo abbonati, non ascoltiamo più nulla, non è che possiamo, perché visto che non si scarica nulla. No, è un servizio proprio ad abbonamento, funziona finché si è abbonati, quando non si è abbonati più non funziona più. Molto bene, io ringrazio Paolo Centofanti per essere stato con noi, ciao Paolo, grazie. Grazie a voi. E Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it, ciao Gianfranco. Grazie. Adesso abbiamo una breve pausa, poi parleremo con gli anonimi. 2024. Riprende questa puntata di 2024, l'ultima nostra parte. Avrete sicuramente sentito parlare del gruppo Anonymous, che su internet ha recentemente difeso Wikileaks. Non è un gruppo segreto, non è un gruppo illegale, visto che tutti possono partecipare al dibattito sul web, ma che cos'è in particolare Anonymous? L'abbiamo chiesto ad uno di loro, che è italiano, l'abbiamo raggiunto, trovato in rete, è raggiunto via Skype e naturalmente è anonimo. È un gruppo assolutamente trasparente, assolutamente non segreto. Non ci presentiamo con nome e cognome, riteniamo noi che non sia necessario, perché una delle condizioni che noi abbiamo sono state evidenziate è quella di essere anonimi per poter esprimere semplicemente le nostre idee senza che vengano poste sotto osservazione anche quello che noi siamo veramente, la nostra appartenenza culturale, sociale, semplicemente di far trasparire quello che noi diciamo per quello che diciamo. Quindi voi dite siete sostanzialmente un gruppo di dibattito, non fate nulla di illecito? Siamo un gruppo di dibattito e di azione attiva su internet e anche nella vita reale, in realtà, nel senso, non in Italia, ma magari negli Stati Uniti ci sono state delle manifestazioni con anonimi presenti di persona, nel senso con le maschere di Guy Fawkes, ad esempio, quello di V per Vendetta, ma davanti alle sedi di Scientology, ad esempio, ma sono state manifestazioni nella vita reale. Per quanto riguarda le attività illegali, quello dipende più che altro dalla sensibilità, credo, della polizia nell'analizzare quali sono le attività che noi, o le manifestazioni di protesta che noi portiamo in essere. Ecco, perché nel caso del supporto che voi avete dato a Wikileaks, perché ricordiamo, voi avete ribadito, non c'entrate nulla con Wikileaks, ma date il vostro supporto perché ritenete che quello che sta facendo Wikileaks sia giusto e corretto e vada difeso. In questo caso voi avete attaccato, mettendo KO, diciamo così, alcuni siti internet di istituzioni che raccoglievano soldi, aiutavano a raccogliere soldi da dare a WikiLeaks, ad esempio PayPal, Mastercard, Visa, eccetera, eccetera. E in questo caso, in alcune condizioni, un'operazione di questo genere, di hackeraggio, è considerata illegale. Voi dite di no. Vengono interpretati come pacifici sit-in telematici, nel senso, quello che è stato fatto a tutti gli effetti è niente di più e niente di meno di sedersi pacificamente davanti alla vetrina, quindi all'home page di Mastercard o di PayPal, e impedire l'accesso a quella vetrina o impedire agli utenti esterni di vedere quella vetrina, come se una massa si mettesse improvvisamente davanti a Media World per impedire che la vetrina di Media World venisse vista, e poi questa massa se ne andasse via pacificamente senza lasciare neanche una carta per terra, perché dobbiamo dire che poi l'amministratore di sistema, una volta cessato l'attacco, non trova nessun danno sul sistema e non vengono rubate informazioni personali. Oltretutto, Mastercard e PayPal, nel momento degli attacchi, i servizi essenziali, quindi di pagamento elettronico, erano completamente funzionanti, nel senso... Senti, sull'Italia, a proposito anche di attacchi, anche società italiane oppure istituzioni italiane sono nel mirino o possono essere nel mirino? Nel caso in Italia venissero approvate norme oppure ci si trovasse in una situazione in cui la libertà di espressione individuale o le libertà individuali venissero negate o quantomeno ristrette in maniera significativa, certo, l'Italia, come la Spagna, come qualsiasi paese, possono trovarsi oggetto di critica e di attenzione da parte di Anonymous. Per concludere, se uno è interessato a seguire le vostre attività, come entra in contatto con gli Anonymous? Per entrare materialmente in contatto, dove ad esempio tu hai trovato me, indirizzerei tutti sul sito anonops.ru, da lì possono accedere a tutte le indicazioni del caso per connettersi a server IRC, quindi Internet Relay Chat, oppure per seguire semplicemente i comunicati stampa di Anonymous. C'è un sito di informazione dove vengono postate anche notizie relative a Anonymous, che è anonnews.org. E in effetti anche noi, per trovare il nostro amico anonimo che ci ha raccontato che cosa fanno gli Anonymous, il gruppo degli anonimi a supporto non solo di WikiLeaks ma di tante altre cose in giro per il mondo, ci siamo collegati ad anonops.ru, sito russo. Ricordiamo che WikiLeaks è oggi ospitato da un dominio svizzero, ch, wikileaks.ch. Adesso parliamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione in Italia. Il professor Giuliano Nocci è responsabile scientifico dell'osservatorio e-government della School of Management del Politecnico di Milano, che questa settimana ha presentato i risultati dell'indagine 2010. Eh sì, è la traduzione electronic government, ma in realtà per e-government dobbiamo intendere dei processi di cambiamento organizzativo volti a migliorare le prestazioni dei nostri enti pubblici, dove la tecnologia svolge semplicemente il ruolo di abilitante. Quindi non è tanto e solo tecnologia, ma è cambiamento della cultura, del modo di funzionare delle pubbliche amministrazioni italiane. Il vostro osservatorio ci ha regalato questa settimana molti dati, ma in generale cosa possiamo dire? Le cose vanno bene, male, come? Allora, le cose in Italia vanno un po' a macchia di leopardo, nel senso che vi sono casi molto interessanti di province o comuni che hanno realizzato iniziative potenzialmente fruibili su tutto il territorio nazionale, ma che, ahimè, tristemente direi, e qui sta anche il senso della nostra iniziativa, non sono conosciute dalla larga parte delle istituzioni pubbliche italiane. In altre parole, si determina una situazione per cui che si scopre l'acqua calda in certi casi, ahimè sperperando denaro pubblico che quanto mai come in questa situazione non è necessario fare. Quindi ci sono delle eccellenze, queste eccellenze secondo noi devono essere portate all'attenzione del contesto nazionale. Senta, ci può fare degli esempi di governo digitale per il cittadino o per le aziende? Allora, esempi di governo digitale sono molteplici e partiamo da quello più semplice, che tutti noi con i radioascoltatori sicuramente conoscono, ovvero una pubblica amministrazione solitamente parte con un sito web per informare. Ecco, secondo noi e-government intelligente su questo fronte è quello di concepire l'informazione non riproducendo l'organigramma dell'ente, quanto più invece cercando di organizzare l'informazione per tipologia di bisogni e problemi del singolo cittadino o della singola impresa. Questo è il caso più semplice. Vi sono molteplici altre situazioni. Io posso, situazione magari che non piace a tutti, ma pagare la multa online, quindi non soltanto informarmi, posso scaricare la modulistica e posso poi anche pagare. Questo può avvenire a livello di multa oppure per apertura di nuovi insediamenti produttivi, dove posso realizzare pratiche e avviare la procedura completamente online. Questo è il caso dello sportello unico delle attività produttive. Quindi direi che la casistica è estremamente ampia e già in Italia sono presenti situazioni avanzate in questa direzione. Voi dite che solo il 16% delle amministrazioni dà oggi la possibilità agli utenti di inoltrare online documenti e meno dell'8% rende possibile avviare e concludere per via telematica l'intero iter relativo al servizio richiesto. Sono pochissimi. Questo assolutamente sì. Si scontra con il fatto che purtroppo le pubbliche amministrazioni italiane vivono da un lato in una situazione di oggettiva e conosciuta da tutti ristrettezza finanziaria. Dall'altro, secondo noi è questo il tema più rilevante, in una sostanziale inconsapevolezza di quelle che sono le opportunità anche di risparmio che l'utilizzo di questo tipo di strumenti genera nell'ente locale. In altre parole, quello che noi riteniamo molto importante per il futuro è capire che anche in momenti di ristrettezze economiche e finanziarie, attraverso l'e-government ci si può autofinanziare, l'e-government si autofinanzia attraverso i risparmi. Quindi i risparmi ci sono e sono misurabili, concreti, facili da capire anche per un politico che magari non... Ma assolutamente sì, le faccio un piccolo esempio, discutevamo proprio in sede di convegno. Il comune di Cesena destina il 20% dello spazio per l'archiviazione delle proprie pratiche. Spazio fisico. Spazio fisico, quindi spazio che costa. È evidente che se noi andassimo verso una logica di archiviazione digitale, da un lato si avrebbe risparmio di non avere quel 20% di spazio occupato, ma dall'altro anche il fatto che quando si deve ricercare una pratica il processo è molto più veloce, quindi il personale potrebbe essere impiegato per offrire un servizio migliore a cittadini e imprese. Senta, a proposito di risparmi, dallo studio che voi avete realizzato, esistono casi di condivisione di piattaforme? Perché io immagino che per un sacco di cose ci potrebbe essere una piattaforma web unica e tutti i comuni, tutte le regioni d'Italia fanno la medesima cosa online. Guardi, anche questo è un tema cruciale. Diciamo che è un tema, secondo me, che dovrebbe veramente entrare nell'agenda del nostro governo, cioè il tema della governance dell'innovazione nella pubblica amministrazione. Devono sapere i radioascoltatori che dei nostri 8.800 comuni, la larghissima maggioranza ha pochissimi residenti, pochissime migliaia di abitanti. Non sono, in altre parole, in grado di sostenere iniziative e livelli di servizio quali quelli richiesti in ambito di government. In questo senso, venendo alla sua considerazione, diventa rilevante creare delle piattaforme aggregate di gestione integrata di questi servizi. Abbiamo visto, ad esempio, che un ruolo molto importante può essere giocato dalle famigerate province che, in quanto soggetti che per missione istituzionale possono supportare gli enti locali di piccole dimensioni, riescono a far scala, a mettere in rete queste amministrazioni e quindi a servirle al meglio con una piattaforma unica. Mi piace ricordare il caso della provincia di Brescia, che già adesso gestisce in chiave integrata oltre 160 comuni della provincia. Quindi unica piattaforma, unica logica di servizio, sicuramente risparmi, ma soprattutto anche miglioramento della qualità della vita di cittadini e imprese che interagiscono con la PA. Senta, per far crescere queste percentuali che abbiamo visto, insomma, sono ancora basse, bisogna agire dal lato culturale o da quello legislativo, regolamentare? Cioè, mancano gli strumenti regolamentari o manca il cervello dei politici in primis, ma di molti funzionari pubblici? Mi permetta, basta norme, basta leggi, ne abbiamo abbastanza. Anche recentemente il ministro Brunetta ha varato il codice dell'amministrazione digitale, un'architettura normativa, senza entrare nel dettaglio, molto coerente e opportuna. quello che serve in realtà è definire delle linee guida operative chiare. Gli enti con cui noi interagiamo ci dicono e ci chiedono costantemente: ma a fronte di una posta elettronica certificata, un altro leitmotiv di queste settimane, ma come noi la dobbiamo implementare? Come si aggancia rispetto ai processi interni? Quindi per far aumentare queste percentuali serve una logica di accompagnamento vero da un punto di vista operativo. Le leggi definiscono obiettivi, qui c'è bisogno di linee guida strumentali che aiutino personale con prevalente competenza giuridica ad entrare in un mondo completamente nuovo ma indispensabile, soprattutto se lo rapportiamo ad altri paesi europei. Ecco, a proposito di altri paesi europei, senza andare in Giappone o in altri paesi che forse ci farebbero veramente sfigurare, i nostri vicini in Europa stanno facendo molto meglio o non più di tanto? Ma diciamo, mi piacerebbe risponderle attraverso due brevissime considerazioni. Prima considerazione: dal punto di vista del livello di sofisticazione dei servizi offerti, ci sono certamente i paesi scandinavi e il Regno Unito che si trovano oggettivamente in una situazione migliore della nostra, anche se pur con queste percentuali così basse noi non siamo in una situazione disperata e dobbiamo esserne consapevoli. Secondo elemento, seconda osservazione che vorrei portare all'attenzione dei radioascoltatori è legata al fatto che noi soffriamo di un problema strutturale, che è la cronica assenza di banda larga, ma mi permetta di dire, in molti casi siamo ancora al doppino telefonico, quindi ci manca veramente l'infrastruttura abilitante che può supportare questo processo di cambiamento. Quindi queste due considerazioni sono quelle che io ritengo cruciali in chiave comparata rispetto ad altri paesi europei. Quindi mi sembra di capire che, ad esempio, la Francia e la Germania non sono messe molto meglio di noi. Non sono messe molto meglio, sono messe meglio, ma non molto meglio. Fermo restando che, come dicevo, stiamo ragionando in termini medi. Ci sono eccellenze italiane anche più avanzate di Francia e Germania. Sì, sì, certo, questo accade anche in altri settori. Voi nel rapporto mettete in evidenza un altro aspetto importante, visto che alcune cose, non tutte, ma quando si interagisce con la pubblica amministrazione bisogna pagare, il pagamento elettronico è poco diffuso già nella vita normale. Basta andare in autostrada e io mi stupisco delle file che ci sono nei caselli dove non ci sono le carte abilitate o addirittura il telepass. Anche però la pubblica amministrazione ha un problema, o questo è un problema più che altro dei cittadini? Guardi, mi permetta di dire, questo è un tema in verità piuttosto complesso e interessante da analizzare. Non è tanto un discorso di scarsa fiducia, ad esempio, della pubblica amministrazione per l'utilizzo dei nuovi canali, delle nuove tecnologie per effettuare pagamenti. E vi è un problema, giustamente da lei sottolineato, di scarsa ancora fiducia, di percezione di insicurezza da parte dei cittadini italiani, e questo è un fatto peculiare rispetto agli altri paesi. Ma dall'altro lato c'è i cittadini e le imprese non sono ancora abituati a pensare che si possa interagire con la pubblica amministrazione in modo nuovo. In altre parole, si utilizza poco l'e-government e si utilizzano poco servizi che richiedono pagamenti online rispetto alla pubblica amministrazione, secondo me soprattutto perché non si è ancora fatto quello sforzo di comunicazione rispetto a cittadini e imprese. Vi è ancora nella società civile italiana l'idea della pubblica amministrazione di stampo borbonico che ci portiamo dietro da ormai da decenni. Sì, con timbri e carte, cioè si immagina che quello sia l'unico modo di interazione. Insomma. Sì, esattamente, io credo infatti che se noi vorremmo arrivare a livelli di penetrazione dell'e-government interessanti, dovremmo non soltanto produrre servizi, ma comunicare tanto. Senta, le faccio un'ultima domanda, non so se avete affrontato anche questo tema, non so nemmeno se fa parte del mondo e-government. Il voto elettronico, lo avete analizzato? È un tema di cui si discute almeno a livello universitario, o lo abbiamo accantonato definitivamente? Il voto elettronico non lo abbiamo affrontato, ma ritengo che sia un tema importante. Nell'agenda dei governi degli ultimi anni vi è stato quantomeno l'idea di avviare delle sperimentazioni che però si sono poi, come la carta d'identità elettronica del resto, improvvisamente fermate. Quindi in questo momento l'Italia non evidenzia una volontà reale di andare verso il voto elettronico, anche se qualche considerazione iniziale è stata fatta qualche anno fa. Io ringrazio il professor Nucci per essere stato con noi e le auguro buon lavoro, a presto. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Ed è tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast del nostro programma, potete contattarci per qualsiasi motivo, per segnalazioni, suggerimenti, critiche e quello che desiderate scrivere attraverso Facebook. Trovate la nostra pagina cercando 2024 oppure scrivendoci molto più semplicemente una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma, a Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica e creativa. Noi torniamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 17. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.